La dichiarazione di Moscovici è estremamente interessante dal punto di vista politico e anche dal punto di vista economico, perché ci fa capire come in un certo senso le decisioni e l'approccio di Bruxelles vari in maniera totale a seconda di quale sia la fase politica dei paesi considerati. Innanzitutto il merito della questione è legato al fatto che Moscovici ha dichiarato che qualsiasi forza politica dovesse vincere le elezioni bisognerà approvare entro maggio una manovra correttiva da 3,5 miliardi di euro e naturalmente anche metterla in atto dopo le elezioni, quindi è un monito che, sebbene riguardi qualcosa che va attuato entro la prossima primavera, va poi comunque messo in pratica dal successivo governo. E questa necessità della manovra è dovuta a cosa? Al fatto che mentre la Commissione europea richiedeva un miglioramento del saldo di bilancio strutturale sul PIL dello 0,3%, i piani del governo di cui abbiamo parlato molto spesso prevedono un miglioramento di questo saldo strutturale soltanto dello 0,1%. Ora, è raro che si parli nel dettaglio di cosa significa questa parola nei principali mezzi di informazione, ma il saldo strutturale è una grandezza che dovrebbe misurare quella componente del disavanzo pubblico, quindi quella componente del deficit dello Stato in ogni anno, che non è legata alle variazioni cicliche, cioè agli eventi in qualche modo che non stanno sotto il controllo del governo, ma è quella parte discrezionale del deficit pubblico. Come si fa a estrarre questa grandezza? Siccome non è direttamente osservabile nei bilanci degli stati, che comprendono ovviamente tutte le spese che gli stati effettuano, è un qualcosa che si cerca di dedurre attraverso delle tecniche statistiche mescolando dati osservabili, quindi è un dato che noi in realtà non vediamo ed è appunto una stima. Su questa stima, la cui efficacia e la cui veridicità poi è messa in discussione da tutti i livelli professionali dell'economia, compreso anche dal commissario alla Spending Review, ex commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli, il dibattito verte appunto attorno a questa grandezza non osservabile. In pratica si traduce nel fatto che bisognerà, secondo Moscovici, fare più tagli alla spesa pubblica o aumentare le tasse in modo tale che quella parte del disavanzo che viene ritenuta, diciamo, discrezionale sotto il controllo del governo sia minore. Questo è il dato economico e quindi è importante sottolineare che questa misura del saldo strutturale poi in realtà non è qualcosa di direttamente osservabile, ma è una stima e che quindi soffre di tantissime debolezze proprio per questo. La cosa importante è che invece quali sono le grandezze osservabili? Il fatto che, sebbene Moscovici ricordi che il rapporto debito-PIL dell'Italia sia molto alto, questo stesso rapporto debito-PIL è leggermente calato nell'ultimo anno. E questo cosa ci sta a indicare? Ma ce lo dice lo stesso Moscovici, cioè nella stessa dichiarazione in cui sostiene che sia necessario per l'Italia fare più austerity, detta in poche parole, dice anche che il leggero calo del debito PIL è dovuto principalmente alla crescita di cui il paese ha goduto nell'ultimo anno. Crescita che però è anche dovuta al fatto che l'austerità stessa è stata allentata nel periodo precedente, quindi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Quindi la contraddizione in termini nel discorso di Moscovici sembra essere questa: la minore austerità ha fatto crescere maggiormente l'Italia, questa crescita ha ridotto il rapporto debito PIL, adesso c'è bisogno di fare più austerità e quindi uno pensa, logicamente estendendo il ragionamento, ridurre ancora di più la crescita. Quindi negli ultimi anni, diciamo, abbiamo visto come questa spirale tra austerità e aumento del debito PIL abbia lavorato, e c'è il rischio che lavori nella stessa direzione se qualunque forza politica dovesse vincere le prossime elezioni si trovasse ad applicare queste regole. E questa è la parte economica della dichiarazione. La parte politica è legata al fatto che appunto queste dichiarazioni non venivano effettuate finché la stabilità e diciamo la durata del mandato del governo Gentiloni era ancora giovane. E cioè abbiamo visto come sia queste dichiarazioni di Moscovici che le dichiarazioni di Katainen della scorsa settimana avvengano proprio in un momento in cui cresce l'incertezza sulla possibilità che in Italia si formi un governo, e quindi, in altre parole, mentre diciamo ad un governo comunque amico e comunque garante dello status quo, se non altro istituzionale, dell'Eurozona, si possono concedere certe cose, a governi o a incertezze certezza su governi che potrebbero in qualche modo uscire dai ranghi, invece si fanno dei moniti che fanno in qualche modo leva su vincoli che però a volte, insomma, non vengono fatti rispettare in maniera così cruda. Quello che emerge chiaramente, ancora una volta però, dalle dichiarazioni di Moscovici è che c'è un piano economico che non viene discusso abbastanza all'interno dei mezzi di informazione, perché gli oggetti della discussione, come il saldo strutturale, come il rapporto debito-PIL, come il rapporto tra debito e crescita, non vengono spiegati a sufficienza alla popolazione, spesso non vengono neanche capiti dagli operatori che poi si trovano a doverne parlare, e questo porta a internalizzare un certo senso di colpa, come dire, che noi tutti abbiamo quando poi ci vengono proposte delle manovre lacrime e sangue, come in questo caso sta facendo il commissario europeo. Sul versante politico mi pare di capire che, detta anche in un altro modo, insomma, dall'Europa inizino a pensare che le elezioni non verranno vinte da forze politiche che comunque si sono sempre rivelate amiche o comunque collaboratrici, diciamo così, con l'Europa. In un certo senso sì, anche secondo me, diciamo, il combinato disposto, come direbbero i giuristi, di queste interviste che si susseguono, di queste dichiarazioni, insomma, molto aggressive, ci danno l'idea di un'Europa che ha paura che poi dalle urne o non esca un governo e quindi poi si debba procedere con misure altamente impopolari, formazione di governi tecnici o cose simili, oppure che diciamo le uniche coalizioni che possano risultare in grado di governare sono coalizioni che non sono assolutamente, diciamo, nell'alveo di quelle considerate amichevoli, e quindi c'è un segnale di paura in questo senso che proviene da Bruxelles sicuramente. Certo, e comunque è molto interessante quello che spiegavi prima, perché sembra un cane che si morde la coda, eppure in un certo senso l'Europa vuole la botte piena e la moglie ubriaca, appunto. Se se l'allentamento dell'austerity fa crescere appunto il PIL, fa crescere l'economia e si riduce il deficit, però poi reimporre l'austerity è un eterno gioco dell'oca. Assolutamente sì, e spesso per risolvere questa contraddizione, che una volta che la si analizza è assolutamente evidente, nei documenti ufficiali delle istituzioni europee si fa riferimento sempre al fantomatico lungo periodo nel quale comunque avverrà il giorno del giudizio, in cui i paesi che hanno speso troppo poi saranno costretti, diciamo, a ritornare sui propri ranghi, e diciamo la storia che viene raccontata per cui questo dovrebbe avvenire ha sempre più o meno a che fare o con l'inflazione o con l'impossibilità di pagare i contributi pensionistici, ne parlavamo anche di questo recentemente, e l'idea è sempre quella di far riferimento ad un certo lungo periodo nel quale poi le cose dovranno terminare per i paesi che non hanno obbedito. Il problema poi di questi, diciamo, di questi ragionamenti è che l'orizzonte temporale del lungo periodo a cui si fa riferimento viene calcolato di nuovo sulla base di cose che poi alla fine non hanno nulla di osservabile e sono tutte molto arbitrarie, perciò è davvero folle il fatto che si continui a fare politica sulla politica economica in questo caso, e a dare raccomandazioni di politica economica sulla base di stime che vogliono dimostrare ciò che intendono dimostrare, invece di fare politica sulla base di cose assolutamente osservabili, come per esempio il tasso di disoccupazione. Ecco, in questo senso sembra davvero che dai paesi membri dell'Eurozona, quindi dai governi nazionali, manchi una risposta politica adeguata alla situazione, nel senso che in qualche modo tutti gli schieramenti politici cercano di muoversi all'interno di questo recinto, di proporre cose diverse che si collochino all'interno di questo recinto, ma l'argomento vero, cioè se l'ampiezza di questo recinto è sufficiente per far sì che un'economia cresca, viene raramente tirato fuori nel dibattito.